ad alta voce. Omero Antonutti legge Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Una sera, lì nel terrazzino, ove ora solitamente ci riunivamo quando io tornavo da cena, la signorina caporale mi domandò, ridendo e schermendosi da Adriana che le gridava eccitatissima: «No, Silvia, te lo proibisco, non t'arrischiare!» Mi domandò: «Scusi, signor Meis, Adriana vuol sapere perché lei non si fa crescere almeno i baffi!» «Non è vero!» gridò Adriana. «Non ci creda, signor Meis, è stata lei invece, io...» Scoppiò in lacrime improvvisamente la cara mammina. Subito la caporale cercò di confortarla dicendole: «Ma no, via, che c'entra, che c'è di male?» Adriana la respinse con un gomito. «C'è di male che tu hai mentito, e mi fai rabbia. Parlavamo degli attori di teatro, che sono tutti così, e allora tu hai detto: come signor Meis, chissà perché non si fa crescere almeno i baffi? E io ho ripetuto: già, chissà perché». «Ebbene», riprese la caporale, «chi dice chissà perché vuol dire che vuol saperlo». «Ma l'hai detto prima tu», protestò Adriana al colmo della stizza. «Posso rispondere?» domandai io per rimettere la calma. «No, no, scusi, signor Meis, buonasera», disse Adriana e si alzò per andare via. Ma la caporale la trattenne per un braccio. «Via, come sei sciocchina, si fa per ridere. Il signor Adriano è tanto buono che ci compatisce. Non è vero, signor Adriano, glielo dica lei, glielo dica. Perché non si fa crescere almeno i baffi?» Questa volta Adriana rise, con gli occhi ancora lagrimosi. «C'è sotto un mistero», risposi io allora, alternando burlescamente la voce. «Sono congiurato». «Non ci crediamo», esclamò la caporale con lo stesso tono, ma poi soggiunse: «Però senta, che è un sornione non si può mettere in dubbio. Che cosa è andato a fare, per esempio, oggi, dopo pranzo, alla posta?» «Io alla posta? Sì, signore. Lo nega? L'ho visto con gli occhi miei, verso le 4, passavo per piazza San Silvestro. Ma si sarà ingannata, signorina, non ero io». «Eh già, già», fece la caporale incredula. «Corrispondenza segreta, perché è vero, Adriana? Non riceve mai lettere in casa questo signore. Me l'ha detto la donna di servizio, badiamo». Adriana s'agitò seccata sulla seggiola. «Non le dia retta», mi disse, rivolgendomi un rapido sguardo dolente e quasi carezzevole. «Né in casa né ferme in posta», risposi io. «È vero, purtroppo. Nessuno mi scrive, signorina, per la semplice ragione che non ho più nessuno che mi possa scrivere». «Nemmeno un amico, possibile? Nessuno?» «Nessuno. Siamo io e l'ombra mia sulla terra. Me la son portata a spasso quest'ombra di qua e di là continuamente, e non mi sono mai fermato tanto finora in un luogo da potervi contrarre un'amicizia duratura». «Beato lei», esclamò la caporale sospirando, «che ha potuto viaggiare tutta la vita. Ci parli almeno dei suoi viaggi, via, se non vuol parlarci d'altro». E ora io, dopo un anno e più di forzato silenzio, provavo un gran piacere a parlare ogni sera lì nel terrazzino di quel che avevo veduto, delle osservazioni fatte, degli incidenti che mi erano occorsi qua e là. Meravigliavo io stesso d'aver raccolto, viaggiando, tante impressioni che il silenzio aveva quasi sepolte in me e che ora, parlando, risuscitavano, mi balzavano vive dalle labbra. Quest'intima meraviglia coloriva straordinariamente la mia narrazione. Dal piacere, poi, che le due donne ascoltando dimostravano di provarne, mi nasceva a mano il rimpianto d'un bene che non avevo allora realmente goduto. E anche di questo rimpianto si insaporava ora la mia narrazione. Dopo alcune sere, l'atteggiamento, il tratto della signorina caporale erano radicalmente mutati a mio riguardo. Non c'era dubbio, s'era innamorata di me. Dalla sorpresa ridicolissima che ne provai, m'accorsi intanto che io in tutte quelle sere non avevo parlato affatto per lei, ma per quell'altra, che se ne stava sempre taciturna ad ascoltare. Evidentemente però quest'altra aveva anche sentito che io parlavo per lei sola, giacché subito tra noi si stabilì come una tacita intesa di pigliarci a godere insieme il comico e impreveduto effetto dei miei discorsi sulle sensibilissime corde sentimentali della quarantenne maestra di pianoforte. Compresi che, nonostante quel mio strambo aspetto, Adriana avrebbe potuto amarmi. Non lo dissi neanche a me stesso, ma da quella sera in poi mi sembrò più soffice il letto che io occupavo in quella casa, più gentili tutti gli oggetti che mi circondavano, più lieve l'aria che respiravo, più azzurro il cielo, più splendido il sole. Volli credere che questo mutamento dipendesse ancora perché Mattia Pascale era finito lì, nel mulino della Stia, e perché io, Adriano Meis, dopo aver errato un pezzo, sperduto in quella nuova libertà illimitata, avevo finalmente acquistato l'equilibrio, raggiunto l'ideale che m'ero prefisso di far di me un altro uomo per vivere un'altra vita che ora, ecco, sentivo piena in me. Il mio spirito ridiventò ilare, come nella prima giovinezza. Perdette il veleno dell'esperienza. Finanche il signor Anselmo Paleari non mi sembrò più tanto noioso. L'ombra, la nebbia, il fumo della sua filosofia erano svaniti al sole di quella mia nuova gioia. Era più degna di compassione la maestra caporale, a cui neanche il vino riusciva a dar allegria. Voleva vivere lei, poveretta, e stimava ingenerosi gli uomini che badano soltanto alla bellezza esteriore. Dunque, intimamente nell'anima si sentiva bella lei. Oh, chissà di quali e quanti sacrifici sarebbe stata capace veramente se avesse trovato un uomo generoso. Forse non avrebbe più bevuto neppure un dito di vino. Se noi riconosciamo, pensavo, che errare è dell'uomo, non è crudeltà sovrumana la giustizia? E mi proposi di non essere più crudele verso la povera signorina caporale. Me lo proposi, ma, ahimè, fui crudele senza volerlo, e anzi tanto più quanto meno volli essere. La mia affabilità fu nuova esca al suo facile fuoco. E intanto avveniva questo, che alle mie parole la povera donna impallidiva, mentre Adriana arrossiva. Non sapevo bene ciò che dicesse, ma sentivo che ogni parola, il suono, l'espressione di essa non spingeva mai tanto oltre il turbamento di colei a cui veramente era diretta da rompere la segreta armonia che già, non so come, s'era tra noi stabilita. Le anime hanno un loro particolare modo di intendersi, d'entrare in intimità, fino a darsi del tu, mentre le nostre persone sono tuttavia impacciate nel commercio delle parole comuni, nella schiavitù delle esigenze sociali. Han bisogni lor propri e loro proprie aspirazioni, le anime, di cui il corpo non si dà per inteso, quando veda l'impossibilità di soddisfarli e di tradurle in atto. E ogni qualvolta due che comunichino fra loro, così, con le anime soltanto, si trovano soli in qualche luogo, provano un turbamento angoscioso e quasi una repulsione violenta ad ogni minimo contatto materiale, una sofferenza che li allontana e che cessa subito non appena un terzo intervenga. Allora, passata l'angoscia, le due anime, sollevate, si ricercano e tornano a sorridersi da lontano. Quante volte non ne feci l'esperienza con Adriana? Ma l'impaccio che la provava era allora per me effetto del natural ritegno e della timidezza della sua indole, e il mio credevo derivasse dal rimorso che la finzione mi cagionava, la finzione del mio essere a cui ero obbligato di fronte al candore e alla ingenuità di quella dolce e mite creatura. La vedevo ormai con altri occhi, ma non s'era ella trasformata da un mese in qua? Non s'accendevano ora d'una più viva luce interiore i suoi sguardi fuggitivi e i suoi sorrisi non accusavano ora, men penoso, lo sforzo che costava quel suo fare da savia mammina, il quale a me da prima era apparso come un'ostentazione. Sì, forse anch'ella istintivamente obbediva al bisogno mio stesso, al bisogno di farsi l'illusione d'una nuova vita, senza voler sapere né quale né come. Un desiderio vago, come un'aura dell'anima, aveva schiuso pian piano per lei, come per me, una finestra nell'avvenire, donde un raggio dal tepore inebriante veniva a noi, che non sapevamo intanto appressarci a quella finestra, né per richiuderla, né per vedere che cosa ci fosse di là. Pochi giorni dopo, una scena notturna, a cui assistetti nascosto dietro la persiana ad una delle mie finestre, venne a frastornarmi all'improvviso. La scena si svolse nel terrazzino, lì accanto, dove mi ero trattenuto fin verso le 10, in compagnia delle due donne. Ritiratomi in camera, m'ero messo a leggere, distratto, uno dei libri prediletti del signor Anselmo sulla reincarnazione. Mi parve a un certo punto di sentir parlare nel terrazzino. Tesi l'orecchio per accertarmi se vi fosse Adriana. No. Due vi parlavano basso, concitatamente. Sentivo una voce maschile che non era quella del Paleari, ma di uomini in casa non c'eravamo altri che lui e io. Incuriosito, m'appressai alla finestra per guardare dalle spie della persiana. Nel buio mi parve discernere la signora caporale. Ma chi era quell'uomo con cui essa parlava? Che fosse arrivato da Napoli improvvisamente Terenzio Papiano? Da una parola proferita un po' più forte dalla caporale, compresi che parlavano di me. M'accostai di più alla persiana e tesi maggiormente l'orecchio. Quell'uomo si mostrava irritato delle notizie che certo la maestra di pianoforte gli aveva dato di me. Ed ecco, ora essa cercava d'attenuar l'impressione che quelle notizie avevano prodotto nell'animo di colui. «Ricco?» domandò egli a un certo punto. «E la caporale?» «Non so, pare». Certo, campa sul suo, senza far nulla. Sempre per casa? Ma no, e poi domani lo vedrai. Disse proprio così, vedrai. Dunque gli dava del tu. Dunque il Papiano, non c'era dubbio, era l'amante della signorina caporale. E come mai allora, in tutti quei giorni, s'era ella mostrata così condiscendente con me? La mia curiosità diventò più che mai viva, ma quasi a farmelo apposta quei due si misero a parlare pianissimo. Non potendo più con gli orecchi, cercai di aiutarmi con gli occhi, ed ecco, vidi che la caporale posava una mano sulla spalla di Papiano. Questi poco dopo la respinse sgarbatamente. «Ma come potevo io impedirlo?» disse quella alzando un po' la voce con intensa esasperazione. «Chi sono io? Che rappresento io in questa casa?» «Chiamami Adriana», le ordinò quegli allora imperioso. Tornai a guardare attraverso le stecche della persiana. La caporale non era più nel terrazzino. L'altro, rimasto solo, s'era messo a guardare il fiume, appoggiato con tutti e due i gomiti sul parapetto e la testa tra le mani. In preda a un'ansia smaniosa, attesi, curvo, stringendomi forte con le mani i ginocchi, che Adriana si facesse al terrazzino. La lunga attesa non mi stancò affatto, anzi mi sollevò man mano, mi procurò una viva e crescente soddisfazione. Supposi che Adriana di là non volesse arrendersi alla prepotenza di quel villano. Forse la caporale la pregava a mani giunte, ed ecco intanto colui, là nel terrazzino, si rodeva dal dispetto. Sperai a un certo punto che la maestra venisse a dire che Adriana non aveva voluto levarsi. Ma no, eccola. Papiano le andò subito incontro. «Lei vada a letto!» intimò la signorina caporale. «Mi lasci parlare con mia cognata!» Quella ubbidì, e allora Papiano fece per chiudere le imposte tra la sala da pranzo e il terrazzino. «Niente affatto!» disse Adriana, tendendo un braccio contro l'imposta. «Ma io ho da parlarti!» inveì il cognato con fosca maniera, sforzandosi di parlar basso. «Parla così! Che vuoi dirmi?» riprese Adriana. «Avresti potuto aspettare fino a domani! No, ora!» ribatté quegli, afferrandole un braccio e attirandola a sé. «Insomma!» gridò Adriana, svincolandosi fieramente. Non potei più reggere. Aprii la persiana. «Oh, signor Meis!» chiamò ella subito. «Vuol venire un po' qua, se non le dispiace?» «Eccomi, signorina!» m'affrettai a rispondere. D'un salto fui nel corridoio, ma lì Presso l'uscio della mia camera trovai quasi asserpolato su un baule un giovane smilso, biondissimo, dal volto lungo lungo, diafano, che apriva a malapena un paio d'occhi azzurri, languidi, attoniti. Ma restai un momento, sorpreso, a guardarlo. Pensai che fosse il fratello di Papiano. Corsi al terrazzino. «Le presento, signor Meis», disse Adriana. «Mio cognato, Terenzio Papiano, arrivato orrora da Napoli». «Felicissimo, fortunatissimo!» esclamò quegli, scoprendosi, strisciando una riverenza e stringendomi calorosamente la mano. «Oh, mi dispiace che io sia stato tutto questo tempo assente da Roma, ma sono sicuro che la mia cognatina avrà saputo provvedere a tutto, è vero? E se le mancasse qualche cosa, dica tutto, sa? Se le bisognasse, per esempio, una scrivania più ampia o qualche altro oggetto, dica, senza cerimonie. A noi piace accontentare gli ospiti che ci onorano». «Grazie, grazie», dissi io, «non mi manca proprio nulla, grazie». «Ma dovere, che c'entra? E si avvalga pure di me, sa, in tutte le sue opportunità, per quel poco che posso valere». «Adriana, figliola mia, tu dormivi, ritorna pure a letto se vuoi». «E tanto», fece Adriana sorridendo mestamente, «ora che mi son levata». E s'appressò al parapetto a guardare il fiume. Sentii che ella non voleva lasciarmi solo con lui. Di che temeva? Rimase lì assorta, mentre l'altro, con cappello ancora in mano, mi parlava di Napoli, dove aveva dovuto trattenersi più tempo che non avesse preveduto, per copiare un gran numero di documenti dell'archivio privato dell'eccellentissima duchessa Donna Teresa Ravaschieri Fieschi, che il marchese Giglio Don Ignazio Giglio d'Auletta, di cui egli Papiano era segretario, intendeva illustrare in una biografia minuta e sincera, sincera almeno quanto la devozione e la fedeltà ai Borboni avrebbero al signor Marchese consentito. Non la finiva più. Godeva, certo, della propria loquela, dava alla voce, parlando, inflessioni da provetto filodrammatico, e qua appoggiava una risatina e là un gesto espressivo. Ero rimasto intronato come un ceppo d'incudine e approvavo di tanto in tanto col capo e di tanto in tanto volgevo uno sguardo ad Adriana, che se ne stava ancora a guardare il fiume. Purtroppo, baritoneggiò a mo' di conclusione Papiano. Scrollò due volte le spalle, alzò le braccia e si percosse le anche. «Su, su, Adrianuccia», poi disse accorrendo a lei e prendendole lievemente con ambo le mani la vita, «a letto. È tardi, il signore avrà sonno». Innanzi all'uscio della mia camera, Adriana mi strinse forte la mano, come finora non aveva mai fatto. Rimasto solo, io tenni a lungo il pugno stretto, come per serbare la pressione della mano di lei. Tutta quella notte rimasi a pensare, dibattendomi tra continue smanie. La cerimoniosa ipocrisia, la servilità insinuante e loquace, il malanimo di quell'uomo mi avrebbero certamente reso intollerabile la permanenza in quella casa, su cui egli, non c'era dubbio, voleva tiranneggiare, approfittando della dabbenaggine del suocero. Chissà a quali arti sarebbe ricorso. Già me ne aveva dato un saggio, cangiando di punto in bianco il mio apparire, ma perché vedeva così di malocchio che io alloggiassi in quella casa? Perché non ero io, per lui, un inquilino come un altro? Che gli aveva detto di me la caporale? Poteva egli sul serio essere geloso di costei o era geloso di un'altra? Quel suo fare arrogante e sospettoso, l'aver cacciato via la caporale per restar solo con Adriana, alla quale aveva preso a parlare con tanta violenza, la ribellione di Adriana, il non avere ella permesso che gli chiudesse le imposte, il turbamento onde era presa ogni qualvolta s'accennava al cognato assente, tutto, tutto ribadiva in me il sospetto odioso che gli avesse qualche mira su di lei. Omero Antonutti ha letto Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi, ilterzoanello@rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.